Un consenso pieno politico e non personale. È quello che il presidente Marini punta ad ottenere sulla legge elettorale dalle consultazioni in corso con le forze politiche. Lo ha spiegato lui stesso poco prima di iniziare gli incontri a Palazzo Giustiniani. Quindi grandi svolazzi sul compito affidato non se ne possono fare, non ne posso fare io né li voglio fare, perché ritengo assolutamente rilevante il compito datomi dal Presidente della Repubblica. È un sentiero stretto, ma può darsi, ha detto Marini, che con la buona volontà e la chiarezza dei discorsi si possa aprire qualche spiraglio nell'interesse del Paese. Ha ribadito però il suo no, la destra di Storace. Ci consentirete di correre alla più vicina tipografia a preparare i manifesti. Disponibilità è arrivata dalle autonomie, sì da Dini, solo se si formerà una maggioranza trasversale. Qualora si dovesse arrivare a un ritorno di quella che era la maggioranza che appoggiava il governo Prodi, noi voteremo contro. Ripartiamo dalla bozza bianco, chiede la sinistra democratica. Per Mastella ci sono solo le urne. Stare in apnea a lungo porti il paese all'embolia. A noi non pare giusto. Le consultazioni riprenderanno questa mattina, termineranno lunedì. Marini ascolterà domani anche sindacati ed imprenditori. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.